contrario e basta. Allora la 48 lo va bene. Adesso come si arriva? Forse si è spostato, va. Ehi, ma già c'è bene, non c'è problema, vai. Per l'antenna a te, già l'hai vista, poi è bassa anche come antenna. E al limite già si può sollevare un paio di metri, volendo. Eia, se quelle antenne rendono. Poi lui è a suo libero, capisci tu. Se vedi com'è, è che non avevamo tubo, se no il capo già c'è. Per poterla salire un paio di metri già c'è. Chi è che mi sta chiamando? Massimo, tu sei? No, non mi avrebbe risposto Massimiliano, va. No problem, va bene. Io sono fantossola adesso, eh. Io questo microfono migliorato, va. C'è molto più RM, sì. La propagazione, Emi. Il vino ancora ci sei, caro? Non c'è, no. Deve essere sul 45. Già ti sento, Barra Agricola, già ti sento io. Io sento a tutti. Ma adesso la voce mascola è Antù. Sì, a Sant'Orso la sono, va. Allora è cambio. Mi devi barrendi tutti, i mortacci, due. Cosa vengo? Con la porta che taglio il cavo? Di mudare anche. Gianni, vieni a quadrata, eh? Gianni? Ehi? Stai a casa, sto salendo a finire le partite e sto facendo vedere una cosa. Sono mai stanco, Mattarino, non ho giocato. Sono tutto il giorno là, mi ho comprato manca a mangiarlo. Ah, è giusto che devi fare quella roba là, eh? Perché io sto salendo e me ne sono dimenticato, eh? Dove posti? Allora, me ne sono dimenticato, sto salendo per quello, sono già le 9. Ah, ho seguito di uscire, stavo dicendo all'inizio, poi usciamo con la macchina mia, no? Questo riposando un po', mi ho fatto un bagno, ma sono due giorni rilassato. E possiamo uscire e andarci a quadrato, magari, non lontano, Mattarino, non a Giurano. Mi voglio sedere, fumare una sigaretta, tranquillo. E facciamo così, allora. Allora, vedi, ti sali, da, e ti faccio vedere una cosa. E risulti la figlia che sono gli affratti, dai.